ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti a questa rassegna del sabato, che non è la rassegna stampa internazionale che facciamo normalmente. Questa è una rassegna un po' di approfondimento, ho messo da parte anche un paio di riviste straniere, ma è soprattutto un approfondimento di quelle italiane. E tanto per smentirlo immediatamente, no, inizio con l'Economist, perché comunque è talmente attuale questa copertina dell'Economist in edicola da ieri che mi sembra giusto citarla, perché il titolo di copertina è Locked Out, cioè chiusi fuori, e c'è l'immagine, il disegno di un mondo che però sopra di sé ha quei tipici archi dei lucchetti, diciamo, vecchio stile, e lo spazio per la chiave. Appunto, l'idea è quella che cercano i paesi in qualche modo di lasciare fuori, quindi di chiudere fuori dai loro confini i migranti. Lo stiamo cercando di fare noi in Italia, lo sta cercando di fare l'Europa, sappiamo che lo sta cercando di fare Donald Trump. Naturalmente è stato uno dei cavalli di battaglia di Boris Johnson, che gli ha probabilmente portato molti voti nell'elezione. Naturalmente tutto questo era prima della pandemia. Il tema è globale e non ci sono soluzioni semplici, quindi come sempre l'Economist ve lo consiglio, perché mette insieme una serie di dati di fatto e poi cerca appunto di non dare delle conclusioni, delle soluzioni, ma semplicemente stimolare la riflessione. C'è un approfondimento sempre sull'Economist anche sull'Italia. Ed è secondo me anche questo molto interessante, a parte il titolo che è How to Spend It, che come sapete è anche il nome del mensile del Sole 24 Ore, che poi in realtà è una sorta di joint venture con lo stesso mensile di Financial Times. Perché questo titolo? Il mensile ha una lunga storia come appunto mensile di approfondimento di Financial Times, perché è proprio un'espressione della lingua inglese, che letteralmente significa come spenderli, come spendere i soldi, perché sapete che money in inglese, how to spend it, cioè sottointeso how to spend money, money in inglese è usato al singolare, quindi how to spend it. E il tema ovviamente riguarda invece il famoso recovery plan, di cui continuiamo a parlare e credo continueremo a parlare fino a ottobre, che è quel piano da presentare alla Commissione europea per proporre come spenderemmo appunto i soldi del recovery fund. E si evidenziano ancora una volta i problemi particolari che ha l'Italia, strutturali, che naturalmente vengono da molto prima della pandemia. Passiamo veramente a questo punto all'Italia, perché oggi è il 1 agosto, domani 2 agosto, ed è l'anniversario della strage di Bologna. Il 2 agosto del 1980 scoppiò una bomba alla stazione appunto ferroviaria di Bologna e ci furono 85 morti e centinaia di feriti. A questo dedica la copertina all'Espresso, il numero di questa settimana, poi domani ce ne sarà un altro in edicola, ma trovate molto anche sul web di questi approfondimenti. Il titolo della copertina è Che Stato, e riguarda appunto la strage di Bologna, che più volte in questi lunghissimi, credo 40 anni per i parenti delle vittime, è stata evocata appunto questa definizione strage di Stato. Milioni di dollari dalla P2 per finanziare i terroristi neofascisti e i complici negli apparati. Le carte inedite svelano i mandanti della prima storia nera, della pagina nera della storia repubblicana. E trovate appunto tutti questi approfondimenti all'interno. Ma ho trovato, perché sono un po' ossessionata, come credo la maggior parte dei giornalisti, dalle parole, ho trovato particolarmente curioso l'approfondimento che ogni settimana fa l'Espresso prendendo una parola, ed è anche bello perché una delle primissime pagine del settimanale, scritto a caratteri più grandi di tutto il resto del settimanale, quindi molto semplice da leggere, e questa settimana è frugale, scrive Matteo Nucci. Aggettivo derivato dal latino frugi, indeclinabile, che significa innanzitutto utile, a sua volta dedicato da frux, frugis, frutto, risultato. All'origine usato per valutare positivamente lo schiavo capace di portare frutti al suo padrone, lo schiavo che manifesta dunque una perfetta utilità. Esseri umani e insiemi di esseri umani, come ad esempio certi paesi, possono allora essere definiti frugali in quanto schiavi? La storia del termine non permette conclusioni affrettate. Cicerone usa l'aggettivo e il nome che su esso venne coniato, frugalitas, ossia frugalità, per nobilitare un atteggiamento dello spirito e un comportamento pratico, moderazione contro lusso, temperanza contro dissipazione. Ma com'è possibile definire la moderazione e la temperanza? Platone aveva speso molte parole per dissipare ogni dubbio. Fra la gran massa di analisi, una cosa è certa: temperante e moderato è l'essere umano che domina su se stesso, che sceglie la sua strada e ha in mano il suo futuro. L'uomo dunque che non è schiavo, ma sa disporre dei mezzi materiali per liberare il proprio spirito. E continua poi Matteo Nucci, ma a chi di voi gradisce questa indagine quasi da detective sull'origine di una parola, che poi spesso nel caso dell'italiano queste radici sono nel latino o nel greco, appunto consiglio questo articolo. Il numero in edicola questa settimana del venerdì, il magazine settimanale che viene dato al venerdì appunto con la Repubblica, ha una copertina ancora diversa. Il titolo è Scomparsi d'Italia, dalla più nota Emanuela Orlandi al giovane Fernando Vasile, che ora dopo 8 anni è stato rintracciato. Sono 61.826 le persone sparite nel nulla. Chi le cerca? Troppo spesso soltanto le loro famiglie. E appunto l'articolo inizia pagina 16, vi do ancora questi numeri impressionanti: 61.826 le persone scomparse tra il 1974 e il 30 giugno di quest'anno, 45.000 sono i minorenni e soltanto il 5% sono italiani, 3.052 le persone ritrovate nei primi 6 mesi del 2020 su 4.833 scomparse in questi primi 6 mesi, il 95% è la percentuale di casi risolti nello stesso anno della denuncia. E invece meno 72% di tanto sono diminuite le denunce di persone scomparse nell'aprile 2020 durante il lockdown, perché ormai dobbiamo veramente, credo, imparare a considerare qualsiasi fatto, qualsiasi statistica, riadattandola a quello che è successo durante il lockdown. Il caso naturalmente più importante, che sicuramente riguarda anche alcuni di voi ascoltatori, perché riguarda tantissime persone, è quello della sanità, dei controlli in ospedale e delle operazioni magari di routine che sono state rimandate in questi mesi di emergenza sanitaria, e quindi le conseguenze che adesso i malati cronici, per esempio, o appunto le persone che avrebbero dovuto subire un intervento hanno. Giustamente, credo a proposito appunto di fatti come la strage di Bologna, che a distanza di 40 anni non ha ancora una sua soluzione giudiziaria, non sappiamo esattamente come siano andate le cose e soprattutto chi siano stati i mandanti. A proposito delle persone scomparse da tanti anni che non sono state ritrovate, far passare del tempo da un fatto di cronaca brutto e spegnere i riflettori spesso significa appunto diminuire ulteriormente le possibilità di risolvere il problema. E quindi mi sembra giusto citarvi anche l'articolo di Francesca Cafferri, che inizia pagina 31, sempre sul venerdì, su Patrick Zaki. Francesca Cafferri ha incontrato la sorella di Patrick Zaki, Marise, che racconta le videochiamate dal supermercato, il calcio, la vita bella in Italia. È studente all'Università di Bologna, ora è in carcere, Patrick Zaki, in un carcere egiziano. È stato arrestato il 7 febbraio, quando era sbarcato al Cairo per andare a trovare la sua famiglia, e da allora appunto è in carcere. La sorella sfoglia per noi l'album di famiglia. Ultima segnalazione dal venerdì, un'intervista a Antonio Bassolino, chi si rivede, governatore della Campania molti anni fa, era stato sindaco di Napoli dal 93 al 2000, poi appunto presidente della regione Campania per 10 anni, dal 2000 al 2010. In questa intervista Angelo Carotenuto parla di un po' di tutto. L'intervista è intitolata Governatori si nasce, il virus, la politica, il popolo e la tentazione di ricandidarsi a Napoli, mentre da Zaia a De Luca i presidenti di regione cavalcano i sondaggi. Abbiamo incontrato quello che Angelo Carotenuto definisce il primo viceré della Seconda Repubblica. Invece il settimanale in edicola ogni venerdì, una volta era giovedì, adesso è venerdì, con il Corriere della Sera che si chiama 7, ha una copertina ancora diversa, ma anche questo è un tema che in qualche modo incontra quello più generale, quello della pandemia. Il tema è la bicicletta. Una lunga inchiesta di Fabio Genovesi, il motore della vita. In questi mesi siamo tornati in sella, anatomia di una passione. E trovate tutto appunto a partire da pagina 13, c'è il racconto insomma di Fabio Genovesi da scrittore, ma anche tutti i dati, per esempio le 20 città più ciclabili del mondo. La prima è Copenaghen, seguita da Amsterdam, Utrecht, due città olandesi, Antwerp in Belgio, Strasburgo in Francia, Bordeaux in Francia, tra queste prime 20 non ce n'è neanche una italiana. La classifica in Italia invece mette al primo posto Reggio Emilia, che è la città con più metri ciclabili ogni 100 abitanti. Sempre da 7 vi segnalo un bellissimo approfondimento sul caso di Emanuele Santoro, che ha 29 anni. Questo ragazzo aveva preso i voti, poi si è innamorato e quindi ha lasciato la chiesa. E però dice: Emanuele Santoro aveva 24 anni quando grazie a una deroga prese i voti. Ora a 29 si è innamorato di una donna e ha abbandonato la veste. Fare il prete è sempre stata la mia vocazione. Se potessi continuare da sposato lo farei, rilanciando il tema del celibato sacerdotale. E oltre a lui ci sono anche altre voci in questo articolo di Francesca Del Boca, che cerca di appunto fare una fotografia della Chiesa di oggi in Italia. Sempre da 7 vi segnalo ha molto interessato questo, è cioè una rubrica in realtà, si chiama Lezioni di filosofia di Mauro Bonazzi, e quella di questa settimana si intitola Semplici, no, contorti. Freud ci parla ancora, e scrive Bonazzi: contrariamente a quello che si ripete sempre, Sigmund Freud, che viene così un po' frettolosamente forse definito il fondatore, il padre della psicanalisi, non ha scoperto l'inconscio. Lo avevano già fatto molti filosofi prima di lui, da Leibniz a Schopenhauer e Nietzsche, di cui Freud apprezzava non a caso una battuta: un pensiero viene quando esso vuole, non quando lo voglio io. E insomma, la mente resta un grandissimo mistero. Sicuramente la psicanalisi può aiutare a scoprire alcuni misteri della mente, ma non tutti, mai, almeno per ora, e probabilmente non in questa vita, per noi e per tanti altri. È troppo misterioso la mente, e anche naturalmente il cervello, dove cerchiamo di identificare tutti i processi mentali, anche se poi sapete che a volte spesso si dice che abbiamo anche un secondo cervello, che è l'intestino, quindi insomma la questione si complica. Internazionale di questa settimana, in edicola da ieri, ed è un numero doppio perché poi sempre in agosto Internazionale appunto dedica questi numeri speciali per l'estate ai viaggi, reportage e foto da tutto il mondo. Vi segnalo tra queste storie raccontate una tradotta da Six Tone, scritta da Wang Yiwei e Fu Danni, Il grande restauro, che riguarda la muraglia cinese. Dopo averla trascurata per decenni e sacrificata in nome dello sviluppo edilizio, la Cina riscopre la grande muraglia e il potenziale turistico del suo valore storico. Trovate appunto questo bellissimo lungo articolo anche con molte foto, e vi leggo le ultime righe. L'amministrazione locale di un paese vicino alla Grande Muraglia sta pensando di demolire alcune case e anche alcuni cortili. E per esempio c'è il caso di Chen Wai, che questi due giornalisti sono andati ad ascoltare, perché ci servono degli ampliamenti anche per tutte le stazioni, diciamo, dedicate ai servizi turistici. La Grande Muraglia è talmente lunga che non si può pensare di mettere magari una stazione dove si paga il biglietto all'inizio. Ne servono tante disseminate per il percorso della Grande Muraglia. E dice appunto lì si vuole ampliare il Great Wall Post, dice il piano, però non è ancora stato confermato. La proprietaria di questa casa la prende con filosofia. Dice di avere un solo desiderio per il futuro: quando invecchierò e morirò, spero che metteranno un padiglione, una lapide in memoria di chi è vissuto qui per tanti anni. Per l'epitafio vorrei che scrivessero l'eremita della Grande Muraglia. Questa invece è una storia incredibile, racconta Catherine Rowland su Outside, una rivista americana, ed è la storia di questa donna, Lynx Wilden, che dal 2014 vive nello stato di Washington e organizza anche viaggi, offre i suoi servizi di guida, perché così le persone possono fare esperienza di che cosa significava vivere nell'età della pietra. È cresciuta a Londra negli anni del punk, ora abita in un bosco negli Stati Uniti senza elettricità e ha trovato il lavoro che fa per lei, insegnare alle persone come si viveva nell'età della pietra. E vi leggo l'inizio di questo reportage, questo incontro di Catherine Rowland con appunto Lynx Wilden. Non è facile raggiungere Twisp, una minuscola città nella Methow Valley, nello stato di Washington. Si può comprare un volo per Spokane e tagliare in direzione nord-ovest per quasi 300 km, oppure prendere un aereo a turbo elica da Seattle, sorvolare le montagne e raggiungere la capitale mondiale delle mele, Wenatchee. Da lì si può affittare una macchina e seguire il fiume Columbia per un paio d'ore, oppure potete andarci in macchina partendo da Seattle, come ho fatto io, attraverso il muschio della catena delle cascate, avanzando a passo d'uomo sul ghiaccio delle montagne. Quindi capite che già solo raggiungere Lynx richiede un certo sforzo. È un articolo appunto, è molto lungo, è lo trovate a partire dalla pagina 30 di Internazionale in edicola da ieri, e ci sono anche delle foto, perché per esempio Lynx riutilizza l'arco, come si suppone facessero anche abitanti appunto di tanti, diciamo 2000 anni fa più o meno, della terra. Usa il suo arco come canna da pesca, naturalmente è vestita con pelle animali, c'è un musicista che lavora con Lynx, che ha un tamburo in pelle di daino, e altre curiosità. Vi segnalo ancora due, ma sono tantissimi, bisognerebbe forse chiamarli racconti più che reportage o articoli contenuti in questo numero di Internazionale. Questo ha una firma particolarmente prestigiosa, che è quella di Paul Auster, lo scrittore americano. L'articolo è stato pubblicato su Literary Hub e il racconto si intitola I lupi di Stanislav. Ed è una ricerca che Paul Auster ha fatto in Ucraina sulle tracce della sua famiglia. È una cosa che naturalmente ricorderete tutti, il libro di Jonathan Safran Foer, Ogni cosa è illuminata, da cui è stato tratto anche un bellissimo libro, ed è un po' la stessa idea, cioè americani in questo caso, ma non lo fanno solo gli americani, di origine fede ebraica, che vanno cercano appunto le tracce, che a volte sono in Europa, in Ucraina in questo caso, dei loro antenati. E tra l'altro di recente, proprio da poco, è stato tradotto anche in Italia il libro della mamma di Jonathan Safran Foer, che anche lei ha fatto una ricerca appunto sulle generazioni che l'hanno preceduta. Questo invece, quest'ultima segnalazione che vi faccio da Internazionale, è tratta da 1843, che è trimestrale credo dell'Economist. Si chiama così 1843 perché quello è l'anno in cui è stato fondato l'Economist, e questo è davvero curioso. Si intitola, questo articolo scritto da Joshua Hunt, si intitola La trappola galleggiante. Che cos'è questa trappola galleggiante? È la Diamond Princess, quella nave da crociera che a un certo punto ha dovuto mettere in quarantena tutti i suoi passeggeri. Ma sapete, le navi da crociera sono veramente degli edifici giganteschi, galleggianti, quindi non si tratta di mettere in quarantena poche decine di persone, ma migliaia di persone. I passeggeri della Diamond Princess avevano pagato per una crociera di divertimenti e buffet senza fine. Si sono ritrovati imprigionati sulla nave insieme al nuovo coronavirus, e scrive James Hunt. Il 20 gennaio 2020 circa 2500 passeggeri si presentano al porto di Yokohama, lo stesso dove 167 anni fa sbarcarono gli americani, mettendo fine a più di due secoli di isolamento del Giappone. I nuovi arrivati non vedono l'ora di imbarcarsi su una nave da crociera che li traghetterà da un porto all'altro dell'Asia, sgravandole delle fatiche del turismo fai da te. La loro unica preoccupazione, mentre si accingono a passare due settimane in mare lasciandosi alle spalle il lavoro e la routine della pensione, è essere serviti e riveriti, a almeno per quanto consente la cifra che hanno speso, perché poi sapete che sulle navi da crociera si possono naturalmente comprare pacchetti diversi e cabine di dimensioni diverse, servizi diversi. E scrive ancora James Hunt: i Depliant descrivono la Diamond Princess come una pietra preziosa nei mari del mondo, dove giorno e notte è sempre un'avventura. Lo sfondo di questa avventura è una nave di 116.000 tonnellate, lunga come tre campi da calcio e capace di trasportare un equipaggio di più di 1.000 persone, oltre ai passeggeri. Da lontano risplende di bianco, con una cintura di scialuppe di salvataggio color arancio acceso avvolta attorno alla pancia. Il ponte principale, disseminato di piscine e vaschi idromassaggio, è tinteggiato di blu, che gli dà di metilene e verde dentifricio, che gli danno un'aria un tempo slavata e luminosa. Questa è un po' appunto la descrizione della Diamond Princess, che però appunto poi abbiamo visto è salpata il 20 gennaio, poi ha fatto parte del suo viaggio, poi a un certo punto con la pandemia, che come sappiamo è iniziata in Cina, sembrava all'inizio un problema forse confinato alla Cina e magari ai paesi confinanti, e poi sappiamo che alla fine di febbraio è stato scoperto il primo focolaio anche in Italia, e poi da lì è stato un espandersi in tutta l'Europa e poi naturalmente negli altri continenti. Vi segnalo anche l'ultima segnalazione che vi faccio da internazionale, questo estratto dal nuovo libro di Joe Sacco, che è appena uscito per Rizzoli Lizard. Joe Sacco è un autore di storie a fumetti, si è occupato in passato di per esempio della Palestina, ambientato lì le sue storie a fumetti. Questa volta la storia che si chiama Tributo alla Terra è ambientata in Canada, miniere, pozzi petroliferi e impianti per il fracking, che sapete è quella tecnica che viene usata soprattutto nel Nord America, quindi negli Stati Uniti ma anche in Canada, per estrarre petrolio, e questi procedimenti hanno lasciato ferite profonde nei territori del nord-ovest in Canada, dove vive il popolo dei Dene, popolo originario di quelle terre. È una tendenza questa di usare questa particolare forma d'arte, che è l'illustrazione, il fumetto, per raccontare storie, come in questo caso in Canada, ma appunto ci sono anche biografie di personaggi famosi sempre a fumetti, che si è un po' solidificata negli ultimi anni, e tanto che anche in Italia questo era un po' un genere molto diffuso e apprezzato in Francia e negli Stati Uniti. E poi adesso si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Ricordiamo per esempio, perché ho citato gli Stati Uniti, perché Maus, che è il racconto dell'Olocausto, se volete della Shoah, scritto appunto a fumetti, fu anni fa il primo libro a fumetti, la prima storia illustrata, a vincere un premio Pulitzer. A proposito di ingiustizie, anche se credo che fare il confronto con la Shoah, con il tentativo di genocidio degli ebrei sia praticamente impossibile, però il grande tema delle disuguaglianze dei diritti civili naturalmente esiste, dobbiamo occuparcene tutti. E negli Stati Uniti è riemerso con forza dopo l'uccisione da parte della polizia di George Floyd, quello delle disuguaglianze e dei diritti civili per la minoranza di afroamericani negli Stati Uniti. Sono circa il 14-15% della popolazione americana, gli afroamericani, i neri, però guardando alcuni indicatori sociali, e anche qui dobbiamo di nuovo legarci alla pandemia, si guardano questi indicatori sociali e ci sono, in proporzione rispetto appunto al numero di afroamericani negli Stati Uniti, sono molti di più quelli che finiscono in carcere, sono molti di più quelli che hanno condizioni economiche e lavori meno pagati di quelli dei bianchi o dei latinos o degli asiatici, e in questo caso appunto nel caso della pandemia in proporzione sono stati molto più colpiti come contagi e come decessi rispetto ad altri gruppi. E ora però una breve pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e bentornati a questa rassegna stampa un po' così anomala, non è dei quotidiani ma di approfondimento, quindi soprattutto di settimanali. Abbiamo iniziato con l'Economist, adesso vi segnalo la copertina di Time di questa settimana. In copertina c'è John Lewis. John Lewis forse non è conosciutissimo in Italia, era nato nel 1940 ed è morto circa 10 giorni fa, quindi nel 2020, perciò aveva 80 anni, è morto per un cancro al pancreas di cui lui stesso aveva dato notizia, era deputato al Congresso americano, è una figura importantissima dei diritti civili americani. Aveva partecipato ancora giovanissimo, 23-24enne, ad alcune delle più importanti manifestazioni per appunto i diritti civili degli afroamericani. La sua elegia funebre il giovedì sera l'ha pronunciata Barack Obama. A me vengono i brividi parlando di questo ragazzo, perché sì, aveva 80 anni adesso al momento appunto della sua morte, ma era veramente un ragazzo quando ha iniziato le sue battaglie civili. E in Time, oltre ai ricordi di tante persone, lo definisce Conscience of a Nation, cioè la coscienza di una nazione, e riporta anche alcuni dei discorsi fatti da John Lewis nella sua vita, ma anche molte interviste. Era definito da tutti, sì, un attivista civile, sì, ha partecipato a manifestazioni che poi si sono concluse nella violenza, ma lui non è mai stato per le manifestazioni violente, anzi ha sempre predicato appunto, e diceva scherzando, così era anche il titolo di un suo libro, ho causato molti troubles, molti problemi, ma good troubles, quindi mi sono messo nei guai, ma guai giusti. E per esempio in questa intervista che Time gli fece nel 2017 gli chiede il giornalista: "Is there a formula that people can follow to know that they are on the right side of history?" C'è una formula per capire che siamo dalla parte giusta della storia? E lui risponde: "Those of us who grew up with a religious background, we just say, do what is just, be fair, be kind." E dice: per quelli di noi che hanno un background religioso, che sono cresciuti in una qualche fede, è molto semplice. Fate ciò che è giusto, siate onesti e siate gentili. E l'intervistatrice appunto nel 2017 gli chiedeva: "Kindness is something we don't talk about in politics all that much." In fondo di gentilezza non si parla poi tanto quando si parla di politica. E lui dice: "Tutti i giorni there's a member of Congress who comes to me on the floor almost every single day and he says to me, 'John, what is the word for the day?'" Dice: c'è un membro del Congresso appena eletto che quasi ogni giorno mi viene incontro e mi chiede: qual è la parola del giorno per te? E io rispondo sempre: kindness, goodness, courage, quindi gentilezza, essere giusti e coraggio. E anche ricordandolo, anche vedendolo, è molto facile naturalmente oggi su YouTube ritrovare alcuni dei suoi discorsi, fa veramente effetto questo. Una persona che comunque aveva vissuto sulla sua pelle, pensate, negli anni 60, la prima legge per i diritti degli afroamericani è del 1965, in quegli anni negli Stati del Sud c'era ancora un vero e proprio apartheid. Rosa Parks, la sua famosa protesta fu quella semplice ma dirompente di andare a sedersi su un autobus in uno dei posti riservati ai bianchi, quindi cresciuto in quel clima, ma non aveva dentro di sé alcun tipo di rabbia, soltanto la convinzione appunto che si potesse rendere gli Stati Uniti un paese migliore aumentando i diritti di alcune persone senza nulla togliere ai diritti di quelli di tutte le persone che appunto i diritti li avevano già. Passiamo a Mind. Mind è un mensile delle scienze dedicato proprio alla mente e cervello. Perché ve lo cito? Perché la copertina è questa: adolescenti, l'età dell'incoscienza. Credo che tutti noi, o magari perché abbiamo a che fare con gli adolescenti o perché siamo stati adolescenti noi stessi, sappiamo quanto sia complesso questo periodo della vita. E nella copertina si legge: li descriviamo spesso come annoiati, trasgressivi e privi di ideali, ma chi sono davvero i teenager? Questa è la traduzione americana. E soprattutto, come li ha cambiati la pandemia? E c'è l'intervento di Marco Cattaneo, l'editoriale, che dice: era il 1980, avevo 16 anni e ancora il brutto vizio di ammalarmi ogni volta a ridosso delle feste. Quella volta, subito dopo Pasqua, fu una varicella da manuale, o almeno così disse il medico, che mi costrinse a casa per 2 settimane. Un ricordo personale, però appunto noi ne abbiamo tutti dei ricordi, credo chi magari ne ha di belli, chi di meno belli, però è sempre un periodo problematico per chi lo vive e anche per i genitori e in generale per tutte le persone che stanno vicino agli adolescenti. E quindi il dossier, appunto, poi lo trovate a partire da pagina 27 del numero di agosto di Mind, l'età dell'incoscienza, che cosa spinge per esempio gli adolescenti a sperimentare comportamenti pericolosi o a esagerare con le sostanze. La cronaca purtroppo è fin troppo ricca di questi episodi. Un altro tema interessante, qui da noi si sta per concludere il campionato di calcio, negli Stati Uniti è iniziato, perché congelato dalla pandemia, quello di baseball, è ricominciato anche quello di basketball, però negli stadi praticamente non c'è nessuno, gli stadi sono vuoti con tutta la stranezza che questo implica. E Marcello Turconi, dalla pagina 70 di Mind, ci racconta appunto l'eco degli stadi vuoti. Per rispettare le misure legate al distanziamento sociale, con la ripresa degli eventi sportivi è venuto meno un elemento essenziale delle competizioni, il pubblico. Le prime due foto sono quelle dello stadio di Sydney in Australia, prima e dopo. È uno stadio che ospita soprattutto partite di rugby e football australiano, e qui lo vedete pieno di, con tutto il pubblico, e vuoto adesso. E c'è un'altra foto, una panoramica del campo durante la partita di basket tra Virtus Roma e Banco Sardegna Sassari, giocata a porte chiuse agli inizi del marzo scorso. Gli eventi a porte chiuse sono una situazione insolita, per certi versi spiazzante, anche per i professionisti del mondo dello sport. E tra l'altro ci sono stati anche già tentativi di trovare soluzioni così fantasiose. Un'altra foto ritrae i sostenitori del Borussia Mönchengladbach allo stadio di calcio del Borussia Park di Mönchengladbach in Germania, dove ci sono i tifosi di carta. E tra l'altro, siccome sappiamo i giochi olimpici che avremmo vissuto in questi giorni se non ci fosse stata la pandemia a Tokyo, sono stati rimandati al 2021, ma anche lì, oltre alla discussione più generale sull'opportunità poi di tenerli davvero questi giochi, ma tutto dipenderà dall'evolversi di questa pandemia, c'è già appunto il tema come limitare o magari anche ridurre drasticamente la capienza degli stadi o degli altri posti dove si devono tenere le competizioni. Ultima segnalazione da Mind è un articolo di Valentina Morelli dedicato a 150 anni dalla nascita da Maria Montessori, forse la più famosa pedagogista non italiana ma nel mondo, e infatti il titolo è La rivoluzionaria della pedagogia. La proposta educativa di Maria Montessori continua a destare grande interesse in nome della libertà di ogni bambino di diventare se stesso. E cosa c'è davvero di più auspicabile o migliore? Una nota un pochino più leggera prima della seconda pausa, perché poi sentiremo anche un aggiornamento sulla viabilità. Vi segnalo la copertina del numero di agosto di Amica. La copertina Amica fa da sempre, da quando lo dirige Emanuela Testori da qualche anno, la scelta è sempre una foto molto molto chiara di una sola modella in copertina. Questa settimana è Georgina Granville, tra l'altro non giovanissima, perché poi Emanuela fa anche queste scelte originali appunto di volti magari non scontati. Moda, new start, perché questo è un tema non da poco. Come sapete sono saltati tantissimi eventi, praticamente tutti gli eventi, tra questi anche le sfilate che avrebbero dovuto tenersi in giugno a Milano. Su quelle di settembre a Milano, ma anche a Parigi, su quelle di settembre c'è ancora molta incertezza, ed è in generale tutto il sistema moda che in Italia, sì, le sfilate sono la punta dell'iceberg, ma è il secondo settore manifatturiero. Vale circa 90 miliardi di euro e dà lavoro a circa 600.000 persone, quindi questo new start, questo nuovo inizio riguarda tutta la filiera, non soltanto se si terranno o no le sfilate. Ma dalle pagine interne vi segnalo una bella intervista a Reese Witherspoon, attrice americana che però adesso ha superato i 40 anni, ne ha 44 per l'esattezza, si dedica anche alla produzione. Se il telefono non squilla più a Hollywood, succede anche alle star, specie appena scoccano i 40, ma lei, Reese Witherspoon, spiega in questa intervista a Roberto Croci, non si è data per vinta, si è regolata un altro lavoro, quello di produttrice, un circolo letterario sul web dove sceglie solo libri con protagoniste femminili e spesso li trasforma in film o in serie TV per ispirare le ragazze a non arrendersi mai. E l'occasione è anche appunto la nuova serie che vede protagonista Reese Witherspoon e Kerry Washington, afroamericana, che sono protagoniste e anche produttrici della serie TV Tanti piccoli fuochi. Ma noi, come ci dicevo, adesso ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Rieccoci, ancora buon sabato da Giulia Crivelli per l'ultima parte di questa rassegna stampa di approfondimento. Torno su Internazionale, non quello in edicola da ieri, ma quello della settimana precedente. Peraltro l'articolo lo trovate anche online, perché la copertina era dedicata a un tema secondo me interessantissimo, che è quello del valore delle lingue. E l'avevamo citato brevemente, ma davvero vale la pena di leggerlo approfonditamente, perché me ne sono accorta anch'io che a volte per curiosità o per lavoro vado a vedere riviste, giornali di paesi dei quali purtroppo non conosco la lingua, e una volta, se usando i traduttori, i software, venivano fuori delle cose. Ancora oggi succede con alcuni, però altri si sono veramente evoluti. Il giorno, per esempio, il giorno dopo l'approvazione del Recovery Fund, era stato per me quasi naturale andare a vedere i quotidiani olandesi, e il primo giorno ho chiesto aiuto a un amico, il secondo per scrupolo ho detto no, non gli rompo di nuovo le scatole. Ho usato uno di questi traduttori e la traduzione era assolutamente sensata. E quindi è vero, come scrive Internazionale, che ha tradotto questo articolo dalla Zeit, il settimanale tedesco, che i software ormai traducono per noi. Sapete che in Giappone, in Cina ci sono già addirittura dei prototipi, non so quanto bene funzionino questi occhiali o questi auricolari che riescono a, quando siamo di fronte a una persona che parla una lingua che noi non conosciamo e noi parliamo una lingua che quella persona non conosce, quasi una traduzione simultanea. E però, scrive la Zeit, è solo studiando le lingue che conosciamo davvero gli altri. È molto interessante questo, perché davvero credo chiunque sappia bene, meno bene, meglio una lingua, sa che effettivamente, a parte ci sono alcune espressioni intraducibili, però proprio avere a disposizione un'altra lingua è come se ci desse un altro modo di vedere il mondo, non soltanto di descriverlo a parole. E quindi, appunto, vi segnalo questo articolo che è veramente interessante. Tornando invece a riviste che non abbiamo citato, c'è Internazionale Kids, che è un mensile, e è vero, sarebbe per i bambini, traduce esattamente come Internazionale, traduce quelli che Internazionale considera i migliori articoli delle settimane precedenti della stampa internazionale. Qui vengono tradotti gli articoli di riviste o di versioni indirizzate ai bambini di famosi quotidiani. Ne ha una New York Times, ne ha una la Zeit, e a volte però, anzi senza a volte, io me lo sfoglio tutto e leggo molte cose, perché mi sembra che comunque nello sforzo di semplificazione che si fa quando si vogliono spiegare argomenti complessi ai bambini o agli adolescenti, in realtà a volte si fa un servizio anche agli adulti. Questa copertina, abbiamo tutti bisogno del femminismo, e poi altri temi, e questo articolo in particolare, questo titolo in particolare fa riferimento a un articolo che poi trovate all'interno, tradotto da una rivista pakistana che si chiama Dawn, e dove si spiega che fin dall'infanzia ci vengono assegnati ruoli e comportamenti in base al fatto che siamo maschi o femmine. Il femminismo ci insegna a liberarci da questa gabbia. E come, insomma, anche questo è una mia convinzione, insomma, che il femminismo negli anni ha assunto un'accezione negativa, ed è un peccato, perché poi significa semplicemente cercare, appunto, di capire meglio qual è il ruolo della donna, e possibilmente cercare di mantenere il fatto che comunque uomini e donne sono diversi, ma sarebbe giusto che avessero uguali opportunità. In Occidente questo sicuramente già succede in molti campi, naturalmente, come sappiamo, non è così in tantissimi altri paesi. Poi ho scovato, cercando appunto cose interessanti da segnalare in questa rassegna di approfondimento, questo mensile che si chiama Prisma, e il sottotitolo è Matematica, giochi, idee sul mondo. Sul numero di luglio-agosto c'è tantissimo, tantissimo anche spazio alla pandemia. Il titolo di copertina è In volo verso la ripresa, quello che ci aspetta è un periodo ricco di sfide, l'Italia è l'occasione per tornare a volare, servono responsabilità e visione del futuro, in una parola, scienza. all'interno tantissimi spunti, tantissimi articoli interessanti, anche una recensione, la recensione di Angelo Guerraggio, di un libro che si chiama Morire di aiuti, i fallimenti delle politiche per il Sud. Sapete che parte della discussione, ne abbiamo parlato tantissimo in questa settimana di rassegna dei quotidiani italiani, parte della discussione su come mettere a punto questo recovery plan e poi quindi usare i soldi del recovery fund è quanti destinarne al sud del nostro paese. Su questo tema del morire di aiuti, cioè di dare degli aiuti che poi non sortiscono l'effetto auspicato per tanti motivi diversi, è un discorso che si può applicare per esempio anche agli aiuti per l'Africa. C'è un economista di origine africana che scrive libri e da anni spiega che è molto rischioso semplicemente destinare degli aiuti. In questa recensione a questo libro appunto si affronta questo tema. Un altro tema interessante, quello degli algoritmi, ne sentiamo parlare, ormai algoritmo è tutto il contrario di tutto, si può pensare che ormai si applicano a qualsiasi cosa. Cosimo Di Stante, in un articolo che si intitola Gli algoritmi ci riconoscono anche dietro le mascherine, ci dà qualche spunto, quindi dalle self-driving car, cioè le macchine con la guida autonoma che individuano gli oggetti, al manufacturing per l'analisi dei difetti, dalla robotic manufacturing, quindi produzione nelle fabbriche per individuare i difetti senza il controllo qualità fatto da un essere umano, dalla robotica come ausilio alla navigazione, alla videosorveglianza e alla agricoltura di precisione. Scopriamo come, riproducendo le strutture elementari del cervello, la computer vision sta cambiando la nostra vita. E di nuovo, poi alla fine, questi super computer che cosa cercano di fare? Di scoprire come funziona il nostro cervello, quando poi alla fine non lo sappiamo neanche noi, no? Sapete che ci sono le teorie sul fatto che utilizziamo solo il 10-15% della capacità del nostro cervello. C'era quel film bellissimo di Luc Besson con protagonista Scarlett Johansson, il film si chiamava Lucy, la protagonista Lucy appunto prendeva una sorta di droga miracolosa che potenziava il suo cervello fino a farglielo usare al 100%. Concludo da questo mensile Prisma che pubblica un estratto di uno scritto di Isaac Asimov, forse il più grande scrittore di fantascienza del secolo scorso, ma era anche uno scienziato, e qui per esempio questo estratto riguarda i robot. Vi segnalo anche una bellissima copertina del settimanale Vanity Fair, il numero in edicola adesso, la foto è di Monica Vitti, ma è il tema di tutto questo numero, mi sembra che veramente Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair, che in questi tempi di lockdown si è inventato dei numeri speciali di Vanity Fair molto interessanti, questo è tutto dedicato al sorriso, ma al sorriso delle donne. Il sorriso delle donne, da Monica Vitti a TikTok, 100 anni di ironia femminile quindi i ritratti delle donne che ci hanno insegnato a ridere nel passato. Monica Vitti è stata anche un'attrice comica, ma anche di protagonista di questi giorni, con anche personaggi che magari non conosciamo bene, quindi non necessariamente attrici italiane. Per esempio, a pagina 26, Alice Politici racconta Celeste Barber, che è australiana ed è diventata una star del web e un esempio di body positive, cioè di capacità di accettare il proprio corpo, che per le donne è un problema non da poco. Ultimissima segnalazione da D, il supplemento di Repubblica, che in copertina mette Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani. Il titolo è La bellezza è divina. Barbara Iatta è la prima donna a ricoprire questo ruolo e naturalmente ha dovuto affrontare anche lei l'emergenza della pandemia. Comunque aveva già iniziato a implementare il catalogo online, esporre i disegni di Bernini e riassemblare una pala del Perugino, a guidarla un solo demone, la passione per l'arte, ci racconta Ambra Radaelli. Era davvero l'ultima segnalazione per oggi, insomma era un po' un rodaggio questo della rassegna stampa di approfondimento, quindi ho fatto un pochino di errori, ma mi perdonerete. E comunque ci risentiamo non domani, perché in questa programmazione estiva la rassegna della domenica non c'è, ci risentiamo lunedì per chi vorrà dopo il GR delle 7 con la rassegna dei quotidiani italiani. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.